Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta puntata del nostro podcast, sempre nuovo e frizzante. Come avrete notato, siamo puntuali ogni inizio mese a registrare, anche se le nostre uscite durano in maniera variabile a seconda della post-produzione, che può avere vari problemi. Però fino adesso siamo sempre riusciti a fornirvi un prodotto di qualità eccelsa, almeno a seconda del nostro onesto parere, e sempre più interessante. Stasera io vi introdurrò la puntata, Mario, e come ogni sera abbiamo i nostri esimi colleghi in trasmissione, il buon Francesco. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. E il buon Massimiliano. Buonasera a tutti. Ciao Massi. E quindi i ragazzi ci aiuteranno come ogni sera intervallando con me, parlando degli argomenti principali della puntata e introducendovi qualche cosina interessante come appetizer per cominciare. Quindi direi, ragazzi, di buttarci subito nella mischia e cominciamo con un po' di news e siti. Qualcuno di voi aveva raccolto qualcosa, se non sbaglio. Francesco, c'è qualche novità di cui vuoi rendere dotti gli ascoltatori? Allora, innanzitutto io vorrei dare un save the date, segnatevelo sul calendario e non fate come me che ho prenotato il treno per il giorno prima. E il 28 marzo, che è un sabato, se lo fanno dalle vostre parti, andate all'Arduino Day, è interessantissimo, ci sono andato l'anno passato. È una giornata o un pomeriggio, a seconda dell'organizzazione, dove vengono presentati dei progetti di Arduino, viene presentato il sistema Arduino. A Torino apre il Fab Lab, vi potete fare un giro nel Fab Lab, è veramente veramente interessante, quindi salvatevi questa giornata, prendetevi qualche ora, perché può essere lo stimolo per fare qualche progetto nuovo. E poi sempre su Arduino, non so se sapete, ma c'è uno dei due fondatori che ha fatto una scissione con Banzi per fare un'altra società, che tra l'altro ha il sito che è arduino.org e ha l'esatta grafica di arduino.cc. Ora c'è una diatriba legale pazzesca dietro, ma l'originale, ricordate che è sempre il .cc. Ottimo. Se non sbaglio, per Arduino più o meno questo. Io ho dato un'occhiata sulla diatriba legale, però quando si comincia a entrare in questi, come dire, casini, si perde poi tutto l'obiettivo del open, della comunità, eccetera, quindi diciamo sorpassa quello che è il nostro normale ambiente in cui noi parliamo e ci muoviamo. C'era qualche altra novità, se non sbaglio, su qualcosa di nuovo su Raspberry, Massimiliano? Sì, un paio di notizie. Diciamo la prima è una notizia che ci viene riportata dai primi utilizzatori del Raspberry Pi 2, che ci fanno vedere come i Raspberry Pi sotto determinate condizioni si resetta completamente. Fortunatamente è una condizione molto molto particolare, cioè quando i Raspberry Pi senza nessuno shield né senza nessuna custodia viene flashato, un po' la Man in Black, con un tipo particolare di flash che è molto, mi sembra fosse quella lo Xeno. In quella condizione praticamente la parte di gestione della corrente si resetta e tutta la board riparte da zero. Fortunatamente non è un problema grave, quindi è proprio una condizione particolarissima. Fortunatamente non si distrugge la scheda, semplicemente si resetta, però è una cosa singolare. E mi dicevi te, Mario, che l'effetto per cui si verifica tutto questo è l'effetto per cui Einstein ha vinto il Nobel, o sbaglio? Nobel. Allora, non vorrei essere poi fustigato a morte fuori casa dai colleghi fisici se ho detto una cosa poco precisa, però se non mi ricordo male dovrebbe essere proprio l'effetto fotoelettrico, quindi praticamente una radiazione incidente riesce a innescare un potenziale all'interno di un metallo, che fondamentalmente è il chip semiconduttore che gestisce la parte di potenza del Raspberry. Quindi una certa, diciamo, fondamentalmente deve essere una certa lunghezza d'onda particolare con una certa intensità, che riesce a innestare all'interno del semiconduttore una certa differenza di potenziale, che poi il chip interpreta come se avessi mandato un comando su un piedino. Fondamentalmente in quel comando in particolare lo manda in reset, in blocco la parte di alimentazione. Quindi fondamentalmente, come voi mi insegnate, il metodo di flashare, se non sbaglio era fatto per le EEPROM con l'ultravioletto, è un metodo abbastanza noto per cancellare o comunque per esatto, veniva utilizzato. Non è una cosa, diciamo, non è un bug, non è una cosa nuova. Semplicemente non hanno chiuso questo chip con una copertura opaca. Quindi in realtà per risolvere questo problema, che poi potresti avere solo se spari un grosso flash da fotografo sul Raspberry direttamente, basta mettere in un case o attaccare un pezzettino di assessorante sul chip in particolare. Poi casomai mettiamo un link spiegandovi della cosa, come risolverla, però penso, da come dicevi tu, non capiterà a nessuno, pochissimi dei nostri utenti. No, anche chi è che si metterà a fare la foto con un flash allo xeno della scheda del Raspberry? Si farà la foto con il telefonino che ha il LED e boh. E poi se vuoi fare una bella foto la fai con... Se non sbaglio è capitato proprio per questo, che un tizio che sta dando delle foto del suo Raspberry appena arrivato, per fatte bene, ha cominciato a vedere spegnimenti a ripetizione, l'ha collegato col flash. Sì, allora. Beh, è una condizione già molto particolare comunque, eh? Cioè andare a trovare proprio quel flash e accorgersi che si resettava, cioè io avrei fatto la foto del Raspberry spento, per esempio, e non me ne sarei mai accorto. Giusto, non ci ho pensato, è vero, però non è abbastanza figo, cioè devi far vedere che va con i leddini che vanno su e giù, eccetera. Ma è una foto, non è un video, cioè tu fai la foto, il leddino è acceso e anche se fosse spento che differenza fa? Lo so, però non dà l'effetto figo, io l'ho attaccato e funziona, è una specie di, sai, tipo come dei video di spacchettamenti, delle robe nuove, robe così. Ah beh, giusto, è vero, vanno molto di moda ora gli unboxing. Vabbè. Non lo capirò mai comunque. Basta non fare come l'unboxing dell'iPhone 6, non so se l'avete visto, sì, ora sì. si devia. In cui... Vabbè, lui si merita tutti gli insulti del mondo, sono davvero un cretino. Che in diretta, non so in che stato, ha aperto la scatola e volato in terra l'iPhone 6 appena era comprato. Era il primo iPhone 6, se non sbaglio, dato, una roba del genere. È stato lì la notte intera. In assoluto, quindi proprio il primo iPhone 6 venduto. O forse ovviamente può essere una leggenda di internet, comunque. No, no, ho visto il video io. Perché... No, è che sia il primo. Ah, proprio. Ok. Sì. Però sì, comunque non ditelo troppo in giro, ma l'ho fatto pure io, quindi lasciamo perdere. Eri tu allora? No, non ero io. Io l'ho comprato qualche settimana dopo, ma l'ho aperto e fop per terra di faccia. Ah, vabbè, capita. Non male. Bene, no, allora... ma è che c'era la scatola dove, non so se Massimiliano ci ha fatto caso, la culla dove c'è l'iPhone e non è profonda, lo tiene giusto al pelo, poi l'iPhone di suo è scivoloso, l'ho aperto nel negozio perché mi hanno detto se non lo apri qui e poi ha un difetto non te lo cambiamo. E questa cosa io non l'ho capita, l'ho aperto e mi è scivolato. Ti hanno fatto fare il difetto nel negozio e non stava. Esatto, esatto. C'hai il difetto, è rotto. No, non si è rotto per fortuna. Ecco. No, però c'è da dire che adesso l'immagine è in loop dentro il negozio con tanto di momento rallentato. Esatto, e risate finte da cabaret dietro. Ma io più che le risate ho sentito un sacco di insulti, forse erano nella mia testa, però. Può essere, o anche fuori, perché in quel momento... Comunque, a tua discolpa, devo dire che un po' tutte le scatole, almeno della Apple, sono fatte in quel modo, non hanno la protezione davanti perché devi avere lo stupore quando le apri, però tipicamente poi... Sì, del crash del telefono da terra. Lo stupore è quello. Stuporissimo. Ottimo, ragazzi, dai, andiamo, continuiamo con la scaletta, dai. Sì, sì, c'è un articolo interessante sul Raspberry su dday.it dove che hanno provato un tot di distribuzioni sul multimedia e sullo storage. Vi lasciamo i link, secondo me se volete partire da un prodotto funzionante lì c'è una bella carata, sono 7-8 sistemi tra l'XBMC, quello per fare il NAS, ce n'è abbastanza, secondo me è interessante per poter partire. Ottimo, quindi anche chi comincia da zero lo prende un modello, una revisione 2 col flash del Man in Black, può avere un punto di partenza per capire. Effettivamente se tu dai un'occhiata solo alle distribuzioni di Raspberry così in generale non sai per niente, sei sopraffatto dalla quantità di roba. Quindi due, se tu scarichi quella lì sua, la iniziale, è un Linux senza niente. È quella che sto usando io. Sai qualche cosa o non sai che farci. Sì, tu parli della Debian Wazy, cioè la Raspbian. Sì, sì, sì. E quello sì, è una Debian base senza... Se non sbaglio, io ho preso quella senza Server X, però non so se è integrato dentro perché non l'ho mai acceso, quindi lo so solo... Sì, c'è. Quando okay. Tu lo accendi, il primo boot va... ti fa fare una parte di configurazione in modalità testo e poi parte X e ha un tot di tool, ma ha molta meno roba per esempio di Ubuntu quando lo installi, ovvio. Ecco. Vabbè, io la deconfiguro X immediatamente perché non ci attacco manco allo schermo, quindi solo la prima volta. E la prima volta serve per forza, sì, poi esatto. Non serve più. SSH e via. Infatti, stasera tra l'altro ho fatto una porno serata di chiavi SSH che volavano perché ho riconfigurato tutta la rete di casa, è stato un bagno di sangue, comunque sta funzionando. Tutta la rete, quanti dispositivi hai? C'ho due Raspberry, un Banana Pi, due, tre laptop, un paio di telefoni, un tablet sparsi, un casino. Beh, devo dire che sei già messo bene. Anche io quando ho cambiato router ho dovuto fare un casino della miseria. Ok. Tra l'altro, aspetta, l'altra sera mia moglie ha detto anche spostiamo il soggiorno, ho dovuto spostare il router NAS. Li ho spenti e riattaccati nel giro di mezz'ora e al primo colpo sono andati tutti. Ma scommetto che ti ha chiesto di spostare tutto ma senza un filo visibile, cioè i cavi devono sparire. Ovvio, i cavi sono sepolti dietro perché ovviamente un cavo si è rotto e quindi dopo tante bestemmie ho visto dove era, l'ho riattaccato con lo scotch, robe assurde, però infatti sto ancora andando così, quindi se mi perdete stasera sapete perché, è lo scotch tedesco che mi ha tradito. È colpa dello scotch, ok. Ok, ottimo, quindi questa è Raspberry. C'era un'altra notiziola che se non sbaglio il buon Massimiliano scalpitava? Sì, certamente. Allora, nella puntata passata abbiamo avuto il piacere di avere Michelangelo con noi e parlarci di Udo, e fatto sta che non appena Francesco ha comprato la Udo è uscita una nuova Udo, perché siccome aveva già preso la buona... il momento giusto per comprare il Raspberry ha scelto anche il momento giusto per comprare la Udo. Ora a parte gli scherzi, questa che è uscita, la Udo Neo, è un oggetto in buona parte differente rispetto a quello che ci ha presentato Michelangelo, ed è un oggetto che è più pensato per coloro che vogliono fare sensoristica o comunque sia oggetti che sono collegati via wireless. Infatti rispetto alla Udo originale perde la parte di Arduino ma acquista sulla board Wi-Fi e Bluetooth, che non so se c'erano già nella Udo. Francesco, confermami. Io ho preso la quad, il Wi-Fi c'è, il Bluetooth sai che non ti so dire. Ad ogni modo, in questa qua c'è Wi-Fi N fino alla N, Bluetooth 4 Low Energy e più tutta una serie di porte aggiuntive basata su un chip, ho davanti alla pagina, vediamo, embedded Freescale Cortex A9 e con mezzo giga o un giga di DDR3, quindi una buona scheda, più pensata per oggetti magari dell'Internet of Things che hanno necessità di connettività wireless. Se non ho letto male, c'è anche sopra un giroscopio, un accelerometro, sì, cioè è anche pensata per essere mossa lei e per misurare come viene mossa. Sì, esattamente, esattamente. Ecco, questa cosa me l'ero dimenticata, bravo che... C'ha un accelerometro a tre assi, un magnetometro a tre assi e un giroscopio digitale a tre assi, quindi tutto... sono cose che di solito si trovano nei dispositivi mobili come i cellulari e che sono strausate per determinare i movimenti o... Praticamente ci puoi fare un drone sopra, perché con questi sensori qua riesci a calcolarti la stabilità nell'aria. Manca solo l'antenna GPS, ma penso che con una connessione seriale si faccia anche quello. Sì, no, c'è cioè, cioè, Bluetooth okay. Tranquillamente. Bluetooth 4 è anche abbastanza veloce, quindi senza nessun e consuma problema. Poco. Bello, bello, ottimo. Quindi da questa cosa abbiamo imparato che se volete comprare qualsiasi cosa, chiedermi a Francesco di comprarla. Allora, che poi esce la versione quando... figa. Esatto. Devo dire questo. In post trasmissione, l'altra volta Michelangelo ci ha detto uscirà qualche cosa di nuovo. E io, conscio del fatto che solitamente faccio sempre così, gli ho chiesto, senti, ma posso prendere la Yudu normale oppure mi consigli di aspettare? E lui mi ha detto, prendila senza nessun problema. In effetti non aveva tutti i torti, perché quella di nuova esce poi a giugno in vendita e comunque perde la parte di Arduino. Io la Yudu la volevo proprio per la parte di Arduino e quindi sono parzialmente scusato, dai, su. Okay. Vabbè, non è lo stesso oggetto, diciamo, sono due cose diverse. No, sono schede molto diverse tra loro. Cioè, se fosse uscita una Yudu con un quad core e 2 giga di RAM, mi sarebbero girate un po' le scatole. Ma invece è un'altra cosa, per quello che voglio farci io con la Yudu, il fatto che abbia il giroscopio piuttosto che il magnetometro mi interessa poco. Okay, io quindi, con Arduino voglio montarci sulla XB e cominciare a sensorizzare la casa e con questa qui va benissimo, oltre al fatto che ha una potenza di calcolo tale che secondo me ci posso fare sopra anche il NAS e altre tot milioni di cose. Esatto, infatti io sto un po' provando a fare sensoristica con Raspberry, però devo dire che la parte Arduino, quindi molto più vicina all'hardware, si sente la mancanza. Sto pensando di spolverare un vecchio Arduino per utilizzarlo in comunicazione con Raspberry, perché Linux di suo da solo... Ma devi fare tutto con la porta seriale. Mi sono studiato un po' di cose perché ho scoperto che in un libro del Raspberry che avevo preso c'era tutta una parte di interfaccia con sensori che misurano delle grandezze fisiche, che convertono la grandezza fisica in seriale. Non è proprio semplice il fatto di mettersi lì a aprire la connessione, chiedere il dato, poi decidere quale tipo di seriale, perché Raspberry usa, mi pare, 3-4 tipi di connessione seriale diverse. Cioè, non è proprio così facile. L'Arduino, tu gli attacchi una fotoresistenza e hai la lettura, finito. È molto più semplice. Cioè, molto più, vabbè, diciamo, è una cosa più semplice, per quello è molto più immediata da usare. Sì, e soprattutto scrivi il codice a livello molto basso, cioè tu gli dici se il livello supera su 1024 512, sai che è esattamente la infatti metà. Io l'altra sera sono impazzito per trovare un driver per leggere il sensore digitale che ho attaccato a Raspberry, poi il timing del CPU è diverso da quello del sensore digitale, a volte non si parla, un bordello. Con l'Arduino lui va, legge, ciao, ha fatto. Ma infatti quello che voglio fare io ora è comprarmi due schede XB che non fanno altro che fare tra di loro una connessione seriale, ma che una volta che hai configurato è completamente trasparente. E quindi tu puoi leggere sulla scheda lontana tutti i dati che ti interessano e poi te li elabori dopo. Questo sempre per non avere fili in casa è molto molto comodo. Ma fai la connessione XB sarebbe tra un computer NAS, quello che è, e la Yudu che fa da sensoristica? No, funziona così. Tu hai una XB che monti sull'Arduino e fa da master. La programmi con un programmatore USB, gli dai 2-3 comandi tipo l'assembler, da quello che ho capito. Le altre le configuri come slave e dici alla master, fai la lettura sulla slave 1 e ti restituisce il dato. Non è né wifi né bluetooth, è 483 MHz se non mi sbaglio, è poco sensibile ai disturbi e porta fino a 40 metri in casa. E soprattutto consuma poco, nel senso che metti il sensore, metti le batterie, non hai bisogno di un Arduino dall'altra parte attacchi solo il sensore. Quindi il sensore lo attacchi direttamente sul XB più o meno? Sì, sì, c'è una schedina di interfaccia perché la XB c'è la piedinatura che non è standard, e con i piedini da 2 mm e non è 2,54 come tutte le piastre, c'è una cosa che adatta al pin out, quindi sai esattamente a quale pin della XB ti colleghi. Lì attacchi il tuo sensore e lei parla con la mamma, e quindi non hai bisogno di fare dello sviluppo software su un altro Arduino, tu ne usi uno che accentra tutto. Ottimo, mi hai fatto venire in mente 2,54, pensavo fosse una misura stupida, però è un decimo di pollice, maledette misure imperiali, maledette, ti giuro le odio. Ottimo, quindi questo potrebbe essere poi una nuova puntata per il nostro podcast. Io mi sto interessando un po' di sensoristica per fare anche un progettino, diciamo, ispirato dal tuo motion, dal tuo occhio indagatore, Big Brother. Però quello unito con una serie di sensori che ho comprato, anche robe varie di pressione, temperatura, roba barimetrica. Quindi vediamo un po' cosa ne esce nel futuro. Ma io guarda, ho appena scoperto che per esempio al posto di comandare il motion con IDM potevo farlo con l'RFID. La scheda e un tag costano 5 euro. E quindi sto seriamente pensando di trasferire tutta l'operatività del motion sulla UDU, che è molto più potente, e accentrare tutto lì. Cioè fare... Il motion attiva, disattiva, sensoristica sulla temperatura e su un tot di altre cose in giro per casa. È molto più comodo alla fine quando hai tanta roba sparsa, poi devi, cioè, se un pezzo cade non comunica, ci sono sempre mille problemi, poi non sono, hai spesso poi sistemi diversi, software diverso, hardware non compatibile, bordello. Se ne lavo due, è veramente un'ottima soluzione globale per fare tutta sta roba. Ma io sono contento, a parte che ho bestemmiato un po' per farla partire, perché non ho capito, forse c'era il dongle della tastiera wifi che assorbiva troppo o cos'altro e non si attivava la parte video. Sono diventato matto per 3 giorni a cercare di collegarmi sulla seriale della UDU, che tra l'altro con l'ultima versione di macOS non c'è nessun sistema che emuli correttamente la seriale sulla USB, un casino, e ho scoperto poi che facendola partire senza la tastiera connessa funzionava, fa un bagno. Okay. Classiche cose, ci sbatti la testa per giorni, poi ti fermi un attimo e va. Ma è che poi ho fatto la ricerca giusta su Google, mi ha aperto il forum sul sito di UDU dove c'è uno che ha avuto la stessa cosa, ha staccato il wifi il wireless della tastiera e tutto ha cominciato a funzionare correttamente. Questo per sottolineare poi l'importanza in questo, quando comincio a fare questa roba dei forum, cioè penso è la cosa più... Non so, se senza di quello sarei già morto, impazzito da danni. Ma infatti io mi domando, e un po' la risposta ce l'ho. All'epoca, quando ero alle superiori, io lavoravo con l'elettronica, soprattutto la digitale, e tutta la documentazione stava nei manuali. Noi avevamo delle pareti intere nei laboratori con i manuali di ogni singolo componente. Ricordo, io ho fatto dal mio basso tecnicismo, ho fatto un esame di microelettronica con dei libri grossi come dei badili più o meno. Ecco, e ora non serve più, ora tu apri Google, cerchi il codice del componente e il sito del produttore ha tutti i datasheet. Cioè io non posso pensare di poter tornare a lavorare anche solo per, che caspita ne so, stai programmando in PHP e ti serve una funzione, apri Google e ce l'hai. Esatto, a parte poi tutte le documentazioni che puoi tirarti giù in mille modi, non, cioè insomma quella parte tecnica, l'evoluzione digitale, per avere già tutto su un tablet, per dire, o potessi avere tutto a portata di cellulare, cioè non sì, vero, cioè ordini di grandezza in comodità proprio. Ma tanti ordini di senti, grandezza. Ok, eh? Vi ringrazio per la nostra ottima sempre divagazione. Andiamo avanti, perché sennò non siamo manco arrivati a introdurre l'argomento principale. E siamo solo a 33 minuti. Ah, ok, abbiamo altri 3-4 ore. Volevo ricordare per tutti quelli che sono ancora in ascolto e non sono annoiati di aspettare alla fine, perché ci sarà una sorpresina sulla Udo. Quindi tutti quelli che sono lì premendo in questo momento compra Udo, aspettate alla fine dell'episodio che avete una sorpresa da parte nostra, diciamo un regalo nostro per voi. Okay. E non fate il fast forward per cortesia, eh? Esatto, no, non vale, ci sarà un software che se ne accorge e cancellerà la parte finale e tutta la memoria del cellulare. Allora, come ultime due o tre come li abbiamo battezzati, cazzilli, quindi cazzate e gingilli, che sono diciamo il mio piatto forte, quindi se qualcosa è abbastanza stupido io ne ho sentito parlare e l'ho studiata bene. Ho un paio di cosine che ho raccolto in questi giorni, una delle quali è finalmente un progetto di crowdfunding dove ho cacciato i soldi, quindi io sono... Ah, bravo! Esatto. Allora, prima si chiama Zero, che è la prima cuffia digitale, praticamente è un'idea molto carina che la trovate su Indiegogo, quindi una delle due piattaforme, Indiegogo Kickstarter in genere andavano lì a vedere. Fondamentalmente questi tizi hanno detto: perché dobbiamo sentire un audio fatto male? Cioè noi generalmente sentiamo il nostro audio quasi sempre sui smartphone e i DAC, quindi i convertitori analogico e digitali, digitale analogico, scusatemi, converto dal segnale digitale che è registrato nei file sui telefonini nel segnale analogico che viene mandato alle cuffie che sono analogiche, fanno quasi sempre schifo perché sono molto miniaturizzati, non sono pensati per la qualità. Ho detto: perché non facciamo così, facciamo una cuffia con un ADC, scusatemi, con un DAC all'interno molto fatto bene, e questa cuffia ovviamente non la colleghiamo col jack ma la colleghiamo con un micro USB, quindi per alcune versioni di sistemi operativi, quindi Android 4 in su, e per alcuni particolari cellulari che sono poi di stare sulla loro pagina, tu puoi collegare questa cuffia e configurarla come un DAC esterno, come tu avessi un convertitore esterno al cellulare, quindi la conversione viene fatta all'interno del DAC che sta sul filo, quindi sembra tutto per tutto una cuffia normale, in cui però viene tutto convertito all'interno del DAC di alta qualità che è stato fatto, costruito, embeddato all'interno del filo, sembra fondamentalmente un comando di volume, fatto molto molto bene, la parte grafica diciamo di design è fatta molto molto ben curata. C'è stato un, diciamo, come dire, una piccola rivolta, perché molta gente si è incazzata dato che i tizi, se non sbaglio asiatici, non mi ricordo esattamente di dove, avevano promesso di produrre anche un attacco Lightning per gli iPhone se avessero superato una certa soglia. L'hanno superata, per qualche motivo hanno detto che non riescono a finanziare con questa campagna anche l'adattatore Lightning, e ne hanno aperto un'altra solo per adattare Lightning al al loro DAC e cuffie. Quindi c'è stato, come dire, molta gente si è abbastanza incacchiata, però almeno io ho ordinato quella per Arduino, quindi per Arduino, scusatemi, per Android, quindi con una normale micro USB dovrei riceverla tra un mesetto. Poi, come sai, in queste cose sono sempre sorprese di gente che scappa con i soldi all'Havana eccetera, quindi speriamo di no, dai. No, spero anch'io. Tra l'altro una cosa che avevo letto molto carina è che qualcuno l'aveva provata con su Raspberry versione 2 con Volumio, quindi il nostro Michelangelo sarà contento. Quindi fondamentalmente lo puoi attaccare a un hub USB attaccato a Raspberry e configurarlo come uscita audio. Quindi la conversione audio viene fatta all'interno del DAC che è sul filo con Raspberry e ti senti tutta una musica di qualità fantastica. Per una volta su delle cuffie piccole, sono delle cuffie in ear normali, sembrano normalissime cuffie da qualche euro. Bello, quindi... bello. Tieni conto che già ora, se tu metti un DAC USB, quelli che costano 5 euro, sulla USB di Volumio comunque funziona. Quindi puoi fare uscire l'audio sulla USB. Quindi è fattibile. Beh, quello alla fine dipende dal sistema operativo, se riconosce quell'oggetto come un device audio, quindi Linux lo fa, Android che praticamente sotto c'ha Linux anche da un certo livello in poi lo fa. Se non sbaglio c'erano problemi per alcune robe, tipo, non mi ricordo bene, non sbaglio, Sony o altri, o Samsung, solo alcuni modelli, perché anche lì, loro mettendo le mani pesantemente nel sistema operativo, non hanno più il, cioè diciamo Google poi non ha più il controllo su quello che fanno su quei dispositivi Android. Vabbè, Comunque, io lo avrò sul mio Nexus, dovrebbe funzionare, quindi quando arrivo vi faccio sapere se sono contento. E quindi vogliamo assolutamente sapere come funziona. Perfetto, appena arrivo faccio un paio di test, ovviamente con il nostro podcast, e sento solo quello. E poi ma non ci crede nessuno. Esatto, ne sento troppi purtroppo. Ok, questo era quanto, questo è quanto per la Z2.ero, è il nome, poi ovviamente avrete il link. Un'altra piccola chicca che ci ha segnalato il buon Marco Acorte, che su Twitter è Acor3, lo ringrazio per la segnalazione, è il PJuice, che è praticamente una piattaforma portatile per progetti portatili con Raspberry Pi. Fondamentalmente sembra una delle classiche Shield, come sono per Arduino e anche per Raspberry, che va attaccata su, e all'interno monta varie cose interessanti. Di base è una batteria da 1400 mAh, però può essere portata fino a 5000, quindi 5A, che per un oggetto che consuma pochissimo Raspberry ti permetterà di far andare tantissimo. Ha integrato anche un clock in real time, che è comodo per avere una scorrere del tempo anche se non hai connessione a internet, quindi se sei con un, come dicevi tu, per un drone o comunque per una roba non attaccata a internet. Sì, perché sede... il Raspberry pecca su questa cosa qua, che non ce l'ha. Ma è una, se non sbaglio, era un problema del chip, proprio del core, proprio per risparmiare al massimo. Tieni conto che non ce l'ha neanche la U2. Ma penso che nessuna di queste schedine ce l'abbia, no. Anche se alla fine è un oscillatore che poi comparti per niente e lo attacchi su. È un fatto su. Di batteria, penso, perché l'oscillatore consuma batteria e le batterie, per piccole che siano, comunque occupano un sacco di spazio su queste schede. E quindi non le monta nessuno, perché tanto poi dicono... l'accendi, la attacchi e io mi sincronizzo, quindi però per chi non fa la sensoristica meteo oppure roba droni o robe così, alla fine non è un modo per controllare il tempo, quindi con questo modo tu, dato che ci attacchi poi qualche ampere di corrente dietro, dici vabbè, atteniamoci pure un clock, consumerà alla fine una parte infinitesima. Poi un orologio consuma veramente esatto. Poco alla fine è un oscillatore al quarzo. Poi un giorno potremo anche fare un approfondimento pure su questo, su come vengono usati questi cosi. Sì, interessante, ottimo. Quindi comunque per ricordarvi, ambo due questi progetti sono stati finanziati e quindi verranno prodotti. Il PJuice per adesso non ho intenzione di comprarla perché non ho progetti da campo, diciamo, però potrebbe essere un'idea, dato che anche dal lavoro stiamo mettendo le mani su un po' di Raspberry che potremmo usare per fare delle cose, portarseli in giro potrebbe essere una cosa interessante. Leggo anche che c'è la versione solar, cioè c'era anche una versione dello Shield con un pannello solare sopra o... Guarda, io l'ho letto più o meno accuratamente e quando dice c'è, puoi liberarti dalla griglia e fare solar, però non ho trovato da nessuna parte specificato c'è un pannello solare attaccato. Quindi non l'ho capito. Parlano dell'energia solare, eccetera, però onestamente non l'ho capito. No, perché avessi un pannello solare, vabbè, dipende da quelli che... La dimensione è piccola, cioè saranno 10 cm quadrati, se va bene. Secondo me quello lì di cui parlano è pensato come monitor per installazioni di pannelli solari. Quindi tu attacchi lì e ti serve per fare monitoraggio di quanta energia... E ti serve anche per caricare la batteria integrata su. Una roba del genere, ne me lo studierò meglio, però mi sembra di capire che non c'è proprio un pannello solare su, da nessuna immagine che ho visto, anche nel testo non ne ho visto parlare da nessuna parte, però parlano di energia solare, quindi in effetti torna, diciamo, uno dei primi, nel primo punto delle features parla della batteria on board e dice che to last up to 24 hours in constant use, cioè che può durare fino a 24 ore in uso costante della Raspberry, quindi immagino al 100% della CPU, che torna con quello che dicevi te per un caso d'uso in cui hai, che ne so, la notte in cui deve girare, ma il giorno può ricaricarsi. Esatto, quindi una specie di, ci puoi fare un piccolo rover marziano, per dire. Non sarebbe una cattiva idea. Ottimo, quindi questo era il cappello iniziale delle news. Quindi adesso andiamo. Abbiamo finito in soli troppi minuti. Ma io sono a 42, quindi tolto i 10 minuti del discorso iniziale tra di noi, una mezz'ora è passata. Quindi ci sta, dobbiamo spendere almeno un'ora ormai per tradizione prima di entrare. Bene, allora possiamo buttarci a pesci sulla parte ciccia della serata. Quindi stasera si parlerà fondamentalmente, come avete capito immagino anche dal titolo, della Internet of Things. Quindi chi di voi vuole fare gli onori di casa e cominciare con la nostra indagine sul mondo dell'internet delle cose? Allora, apro le danze io su questo argomento. Sì, allora partiamo intanto con il definire che cos'è l'Internet of Things. Come prima cosa, sicuramente questa sigla si è sentita perché è diventata famosissima negli ultimi, diciamo, 2 anni, e Internet of Things è stato tradotto in italiano giustamente come l'Internet delle cose. In sostanza, con questa nomenclatura si fa rientrare tutto ciò che da oggetto di uso quotidiano, che sia casalingo o meno, si fa diventare connesso ad internet. Quindi tutti quegli oggetti, come ad esempio una lavatrice, un frigorifero o oggetti molto più semplici, come potrebbe essere anche una maniglia o, vedremo poi dopo, un termostato per la caldaia, tutti questi oggetti vengono espansi e diventano connessi ad internet. Il fatto di essere connessi ad internet permette di poter fare un certo numero di cose in più. Il limite è soltanto la fantasia. Ora, a cosa servono? In linea di principio sembrerebbe quasi che servano a poco. Però, come detto, il limite è appunto la fantasia. Una volta che l'oggetto è connesso ad internet, una volta che si possono realizzare le cosiddette programming interface, cioè le API, si possono connettere oggetti di questo tipo tra di loro, ad esempio dargli una logica, e quindi realizzare un qualcosa di veramente interessante e complesso. L'esempio potrebbe essere, non so, un sistema di che regola le luci all'interno della casa, che possono magicamente accendersi e spegnersi da sole quando siamo fuori casa. Perché? Ad esempio, per simulare il fatto che siamo in casa, e quindi possono diventare un sistema antifurto. E questo si può fare con delle piccole piccoli oggetti che si collegano alle prese della corrente e che, controllate anche attraverso internet, accendono e spengono una luce, la luce classica, una piantana, una luce da tavolo. Ora, questo è un esempio semplice. E risponde un po' anche alla domanda a chi servono, per cosa. Ecco, servono un po' a tutti. Con il tempo avremo sempre più possibilità, si diffonderanno e quindi saranno effettivamente utili a tutti. Ne varrà la pena spenderci? In questo momento molto probabilmente no, perché il costo è ancora relativamente alto a seconda di quale oggetto si intende comprare, però ci sono alcuni casi in cui effettivamente ne vale la pena, perché si riesce a risparmiare o comunque sia l'utilità è già elevata. Ora, come ogni cosa collegata ad internet o che fa riferimento ad internet, c'è sempre una parte relativa alla sicurezza che va guardata e analizzata bene. E se non erro, Francesco vuole dire qualcosa riguardo a questo? No, il mio pensiero che ho letto sul blog di Attivissimo, che però è una riflessione secondo me interessante da fare, perché praticamente ormai gli oggetti che vanno su internet sono fatti dalle grosse corporation. Le grosse corporation hanno bisogno dei nostri dati per un sacco di cose, e la domanda è: ma per esempio Google col suo Nest che cosa ci fa con l'informazione di quando noi siamo a casa? Oppure ci fa qualcosa o non ci fa niente? Ed era venuta fuori una citazione di un anonimo, non c'è il nome, che è carina, che dice: io non voglio l'internet delle cose, voglio l'internet delle cose che si fanno i cazzi loro. Cioè, io voglio essere certo che le cose che mi metto in casa non mandino a qualcun altro quello che io faccio. Un esempio palese che secondo me ha svegliato molto l'opinione pubblica sono i televisori Samsung. Non so se avete letto ultimamente. Gli ultimi smart TV di Samsung si accendono dicendogli accenditi. Samsung piccolo piccolo nel manuale d'uso dice: mi raccomando, quando il televisore ascolta, quindi sempre, non parlate dei fatti vostri davanti al televisore, perché noi per il riconoscimento prendiamo tutto quello che il televisore ascolta, lo portiamo nei nostri data center e lo analizziamo. Ecco, questo è il massimo, nel senso che ora nascerà qualche cosa di un po' grosso, perché si sono accorti che davvero Samsung può, volendo, registrare tutto quello che viene detto in tutte le case dove c'è uno smart TV Samsung. Aspetta, cos'è che mi ricordava 1984? Sì, è la stessa cosa. Infatti hanno preso uno stralcio di questo manuale d'uso e lo hanno messo in parallelo al pezzo dove in 1984 si dice esattamente la stessa cosa. Magnifico. E questo secondo me ha dato un grosso scossone alle fondamenta dell'internet delle cose. La persona media può cominciare a pensare: compro il frigo connesso a internet e c'è qualcuno che sa che io faccio scadere sistematicamente il latte, piuttosto che compro la lavatrice e sanno che io lavo più lana che cotone. In effetti, visto tutto quello che si è scritto sull'NSA di qua di là, sono dubbi leciti. Poi che qualcuno ci faccia effettivamente qualche cosa non ci è dato saperlo, magari non ci interessa neanche. Beh, ti dico. Però secondo me è una cosa a cui bisogna pensare, tranne, cioè, e bisogna anche pensare al fatto che adesso ci sembrano cose molto tecnologiche, molto più in là, cioè molto oltre rispetto a quello che in effetti ci potrebbero servire. Però in un futuro è quello che pensavamo quando è uscito l'iPhone, ma chi vuoi che lo usi? E la tecnologia corre in questo modo. Avevo due pensieri. Uno era allora, a quello che dici tu è giusto, cioè il problema è questo, secondo me l'uomo medio della strada non, cioè non gli è fregato niente delle cose che non si fanno i cazzi loro finché non è arrivato alla televisione, che è ancora l'oggetto cult, è il tempio della casa fondamentalmente, quindi se tocchi quello la gente se ne accorge. Tutto il resto, tablet, smartphone, sono cose, diciamo, nuove che non entrano proprio nella tua vita, però ormai la televisione c'è, era entrata. Però il fatto è, bisogna pensare a questi dati che vengono raccolti. Cioè non è così banale che non possono essere usati contro di noi in qualche modo. Cioè, per farvi un esempio stupido, come dicevi tu della lavatrice del frigorifero, un esempio di questo ti devo parlare anche quando si parlava, se vi ricordate, anche delle società che fanno analisi del tuo DNA per dirti la possibilità delle malattie genetiche che tu possa avere o no. Il problema grosso sarebbe per dire, pensate se le compagnie di assicurazione medica, che in Italia non ci sono molte, però qui in Germania o in America sono predominanti, possono avere una dettagliata struttura dati di cosa mangi e di conseguenza adattare le loro tariffe al rischio di infarto cardiocircolatorio secondo il tuo stile di vita, rispetto a se mangi troppi grassi ti aumentano il prezzo perché è colpa tua, per dire, o di tutto, cioè qualsiasi cosa potrebbe influenzare la tua vita senza che tu voglia che tutti sappiano tu cosa fai, dove vai, cosa ti piace, cosa non ti piace, i tuoi gusti, eccetera. Cioè, al giorno d'oggi è stato solo per la pubblicità, fondamentalmente, che uno può sempre spegnere. Però in un futuro potrebbe diventare davvero un problema per il lavoro, per qualsiasi cosa. Guarda, io non guarderei troppo al futuro, perché ti faccio un esempio. No, il futuro è domani. Ti faccio un esempio. Tu hai buttato sul piatto un esempio ottimo, no? Le aziende di assicurazione sanitaria. E dici, ok, io se ho la mia lavatrice o l'oggetto tal dettagli, sanno i miei le mie abitudini, cosa faccio, cosa fai, cosa evito, e quindi si possono derivare dei comportamenti quello che vuoi, eccetera. Sicuramente la prima cosa che faranno sarà Google presentarti una pubblicità apposta, quindi quello sicuramente è il primo passo che vedremo. Però questa cosa che tu hai spinto nel futuro di 2 anni, mettiamo, volendo si può fare anche adesso, perché ad esempio se te vai in farmacia e paghi con il bancomat, l'azienda di assicurazione, volendo, se avesse le transazioni del tuo bancomat, e non vorrei essere troppo diffidente, però quando firmi tutti quei fogli su fogli in cui dai il consenso a dare i tuoi dati a destra e a manca, può darsi Poi che... racconto cos'è che è successo con la banca e con il bancomat. Finisci pure. Dicevo, è possibile che anche già oggi le aziende lo facciano, quindi giustissimo ciò che dici, però secondo me l'unica cosa che vedremo è un accentuarsi della cosa. Dobbiamo solamente iniziare a cambiare il punto di vista sulla privacy. Secondo me il fatto che queste robe vengano. Francesco, giusto una cosa per chiusura. Sì, vai. Il problema, come dire, queste robe vengono buttate in piazza con queste cose che fondamentalmente sono banali, quello della televisione, per dire. Però è ottimo per sensibilizzare, anche per far mettere paura all'uomo medio, che normalmente non si interessa di questa roba pensando che sono cose da super nerd, per fare in modo che questo prema la società a maturare l'opinione su queste cose. Cioè, se nessuno. Il problema fondamentale di questo, ovviamente, del trattamento dei dati e quello per cui ha fatto, come dire, diventare necessaria poi la legge sulla privacy, il fatto che era una zona grigia, cioè prima ognuno faceva quello che voleva, quello è il problema. Cioè, se una cosa non è regolamentata, ognuno fa quello che vuole e tu non puoi impedirglielo, solamente le grandi aziende che hanno più mezzi. Quindi oggi con la legge sulla privacy siamo un pelo più tutelati. Cioè, fondamentalmente, pensate questo, se c'è una legge su una cosa, vuol dire che quella legge va a tutelare un problema che esiste. Cioè, le leggi non ci sono per allegria o per farne di più, o per far guadagnare avvocati o robe del genere, che si dicono in genere. Però sono per, come dire, calmierare e regolare un problema che altrimenti non potrebbe essere regolato. Quindi un problema sui dati esiste. E come diceva Massimiliano, secondo me moltissime aziende, con tutti gli scandali come la Samsung, ma pensate a aziende grosse come la Bayer, che dopo che l'ho nominata ci verranno a bruciare le case Sì. in questi giorni. Pensate cosa stanno accumulando sui dati personali vostri. E loro non si fermano perché hanno degli interessi molto più grandi. Cioè, quello che noi vediamo nel mondo della high-tech è una bazzecola rispetto a quello che le aziende farmaceutiche e mediche muovono. Quindi loro hanno interessi molto, molto più grandi a racimolare i nostri dati e sapere cosa facciamo e dove andiamo. Quindi potrebbe in futuro uscire questa roba, come diceva Massimiliano. Quindi prego, Francesco, vai. No, volevo solo dire, visto che Massimiliano ha tirato fuori la questione della banca, mi si era rotto il bancomat e volevo andare a cambiarlo. Vado in banca e faccio la procedura e la banca non mi dà il permesso di cambiare il bancomat. Indaga perché, per come, di qua di là, perché non avevo dato l'autorizzazione alla gestione dei miei dati privacy per la comunicazione a ditte esterne, perché la gestione del bancomat è gestita in modo tale che deve essere data la comunicazione a quelli che gestiscono lo smarrimento. Ok, che è un'altra azienda, un altro Esatto. pezzo. Quindi cos'è che Ok. ho dovuto fare oltre a bisticciare con l'impiegato della banca, bisticciare con il direttore della filiale, bisticciare con il call center della banca? Comunque non se ne usciva, sono andato in banca, ho firmato per la privacy per dare il consenso, mi sono fatto dare il bancomat, mi sono rifatto dare i moduli e ho firmato per negare il consenso. Ah, ok, quindi hai dato un consenso a scadenza, diciamo, Sì, di parziale. 4 minuti il tempo che è servito per cambiarmi il bancomat. Un'altra cosa che io noto è che la gente in effetti si preoccupa mi controllano di qua di là, però poi quando firmano un contratto non leggono. No, ma sì. Esempio, voi lo sapete che per avere la tessera sconto cinema del gestore di telefonia 3, voi dovete autorizzare il trattamento dei dati di navigazione per profilazione. Cioè, che ci fanno? la gente non lo sa, firma perché così vado gratis al cinema. Ok, quindi serve per... Ma scusa, alla fine è inutile perché... Cioè, inutile. Io penso potrebbe servirti per sapere poi in che cinema vai, però se tu mi colleghi a una scheda o qui lo sconto, sei automaticamente il dato che io dove ho usato quella scheda, quindi sai dove sono andato. E invece loro fanno sì che ti regalano questi 8 euro, 9 euro a settimana, ma in cambio del fatto che sanno dove vai quando navighi con il cellulare, che loro lo usano sempre. Sempre ovviamente per profilare te e queste cose qui. Alla fine l'internet delle cose espone un lato extra rispetto a quello che è già esposto, però a chiudere posso dire che con l'internet delle cose si fanno delle cose fenomenali. Voi prendete le luci Hue della Philips o il sistema quello delle prese comandate a distanza di non mi ricordo quale marca, lo mettete insieme a If This Then That, che è il servizio di internet più bello che c'è, e potete fare anche le magie. Potete tipo far accendere una luce in camera quando vi arriva una mail, tipo. Figo. O cambiare colore a seconda se hai uno status su Twitter, queste cose fighe. Esatto, cioè si fanno delle cose che per l'uomo medio sono assolutamente delle inutilità. Però secondo me se adattate poi alla realtà, tipo io ho dei parenti che non sono avvezzi all'uso del cellulare, gli installo questa lampada qui e in base al colore della lampada loro sanno se io sto arrivando oppure no, se va tutto bene, eccetera. Cioè, io me la immagino anche in questo modo. E comunque l'unico modo per sapere dove stanno i nostri dati, tutti, è quello di farsi l'internet delle cose per i fatti propri. Si piglia una schedina, sensori e basta. E via. Che i dati non se ne vanno da casa, esatto, tua. Quasi farsi certo. Il cloud proprio e tutta questa roba. Sì, con alcuni limiti, ma ne parliamo dopo quando parliamo di un cloud. Ok. Giusto una cosina per chiudere, che mi ricordo sempre che probabilmente era il primo progetto che ho mai visto quando cominciò a interessarmi di Arduino, quindi stiamo parlando del 2009, una roba del genere. Era una come si dice in italiano? Un panettiere? Baker? Tipo, penso della parte della California, Bay Area. Avevamo fatto una fighissima cosa, praticamente avevano un grosso selettore, uno switch elettromeccanico grosso, con cui potevi selezionare su varie cose, quindi tipo cornetti, pane francese, varie cose. Ogni volta che loro facevano una sfornata nuova, selezionavano una cosa che avevano fatto e poi avevano un enorme bottone rosso, tipo classico bottone panico da premere, e quello comandava un Arduino che mandava un tweet a tutti quelli che stavano seguendo il tweet del panificio, che diceva: abbiamo appena sfornato i cornetti o abbiamo appena sfornato il pane fresco di questo tipo. E tutti quelli che erano nell'area facevano un salto lì apposta a comprarselo. E questo è praticamente internet delle cose fatta, come dire, a livello artigianale. Però mi è sempre piaciuta l'idea del... Per non parlare del cesso che comandava con lo sciacquone i tweet, quella è sempre una bellissimo, una chicca. È assolutamente molto utile. Scusa, guarda, il tuo medico sarebbe contentissimo di saperlo. Lì il punto di forza è che i tuoi dati devono viaggiare su internet, devono essere condivisi, giusto, altrimenti giusto. Che divertimento c'è? Esatto. Il fatto è che se tu te lo gestisci per i fatti tuoi, cioè ti apri la tua bellissima porta e accedi da dove sei a casa tua, è un conto. Già se ti appoggi a un altro servizio, non sai ti appoggi dove sono i dati lì, ma non sai che fine fanno. Esatto, infatti io sto avendo dei problemi adesso con cose che vorrei fare anche per noi, per plottare alcune statistiche. Sono delle fantastiche librerie, non so se conoscete Plotly, che è un servizio... È quello che ci hai fatto vedere, che fai i grafici dai CSV. Esatto, ma non solo, puoi fare i grafici in stream, puoi fare una libreria di grafiche molto molto belle. Problema piccolissimo è che i grafici non te li fai tu, cioè tu li mandi a loro... È un po' come la roba di Samsung, loro creano con la loro infrastruttura il grafico, però i dati sono sempre ostati da loro. Quindi se tu fai una cosa, cioè noi lo facciamo come di per divertimento, però se tu fai una soluzione semiprofessionale non saprai mai dove sono quei dati e non hai alcun controllo, cioè è una roba orripilante il pensiero, non lo so, mi lascia un po' sconcertato, però lo userò almeno per poter dire com'è e farvi un po' di esperienza anche per voi. Ok, allora, detto ciò, Massimiliano, vuoi introdurci un'altra, qualcos'altro interessante? Sì, visto che parliamo di Internet of Things, vi riporto la mia esperienza con il termostato, quindi. Ottimo, assolutamente ottimo. Siamo tutto orecchi e con la carta di credito bloccata, perché sennò a fine trasmissione compro anche il termostato. Non sono riuscito a convincerti neanche mandando il codice sconto, vi ho capito. No. Io non posso, quindi sono salvo. No, perché il tuo Wi-Fi acceptance factor forse è molto basso, quindi ha bisogno di tenerlo a bada. Va bene, a parte questo, niente, allora, avevo la necessità di cambiare un termostato veramente, veramente vecchio, un qualcosa di osceno. E alla fine sono andato a guardare quelli che erano le possibilità nel momento in cui l'ho comprato, che era fine dell'anno passato. Netatmo era una delle possibilità, l'altra possibilità era il Nest. E poi ce n'era un'altra casa che ora non ricordo, magari linkeremo a fine puntata, che dava però una soluzione leggermente diversa. Escluso subito il Nest perché non è pronto per il mercato italiano in quanto installazione, rimanevano queste due soluzioni che variavano appunto per la modalità, tipo non il Netatmo ma l'altra lo davano anche in comodato d'uso, oppure in acquisto costava leggermente di più, e variavano di poco solo per alcune cose. Alla fine ho comprato il Netatmo, che si è installato in una maniera veramente semplice, è composto di due pezzi, il termostato con il display che va al posto del vecchio termostato a muro, qualora si abbia il termostato a muro, quindi l'impianto sia cablato con i due fili, e da un'altra parte che si chiama il relè, che si inserisce in una spina della corrente e che fondamentalmente fa da ponte tra il termostato e l'internet, quindi da connettività wifi al termostato. La cosa bella di Netatmo è che oltre a questa modalità di installazione, che è la più semplice in assoluto perché si smonta il vecchio termostato, si prendono i due fili che ci sono e si monta il nuovo termostato sempre tramite questi due fili, la cosa bella di Netatmo è che l'altra modalità di installazione permette di agganciare direttamente il relè alla caldaia, e quindi è possibile tramite Netatmo installare il termostato in una casa che non ha i fili, che non è cablata con i fili per il termostato, che è una cosa non da poco conto da tenere in considerazione. Quindi praticamente fa in modo che una vecchia casa con una caldaia che è regolata in maniera, diciamo, manuale possa diventare un po' più moderna. Esattamente, tu immaginati una casa vecchia in cui ci fai mettere la caldaia e dovresti fare tutte le tracce per portare i fili del termostato nel punto in cui tu vuoi il termostato. Con questo prendi il relè, che in questo caso quindi sì, è attaccato non alla presa di corrente ma direttamente alla corrente della caldaia, e con altri due fili comanda la caldaia e che si collega ad internet, se quello rimane sempre uguale, e poi il tuo termostato, invece di attaccarlo al muro attaccato ai due fili che comandano la caldaia, poiché non ce le hai, lo puoi mettere dove vuoi, quindi ti diventa un soprammobile da tenere, e c'hai il suo bel display e-ink e vedi la temperatura desiderata. E soprattutto puoi fare in modo di avere la temperatura nelle varie stanze a seconda di dove sei, perché alla fine il problema attuale del termostato, io lo vedo a casa mia, è che se ho impostato 20 gradi, lui i 20 gradi me li mantiene in riferimento a dove sta lui. Se ho una parte di casa più fredda, resterà sempre più fredda. Sì, quello è un problema che in parte ti rimane, poiché non credo che almeno al momento attuale siano previsti più termostati attaccati allo stesso relè. Quindi uno... Però se me lo posso spostare, certo, significa che io lo metto dove voglio la mia temperatura di riferimento. Lo puoi sicuramente mettere nel punto migliore per regolare tutta la casa. Quindi scusatemi se ho capito, quindi il sensore di temperatura è nel termostato, quello col display di cui stiamo parlando, cioè sì. Lì, okay. Sì, sì, lì c'è okay, un quindi... sensore di temperatura per giunta molto preciso perché va a scatti di 0,1 gradi, quindi molto molto molto sensibile, c'ha un piccolo display e ink che, e deve avere anche un giroscopio perché il display ink lo si può mettere sia in verticale che in orizzontale e si riposiziona automaticamente e quindi si può decidere come metterlo in base alle proprie preferenze, e il termostato non ha altro all'infuori di un tasto più e meno che permette di settare una temperatura temporanea. Perché, allora, cosa vuol dire questa cosa? C'è il set point, praticamente. No, allora, c'è un concetto che è un po' diverso per questo termostato. I termostati, quelli che siamo abituati ad usare, ti permettono di impostare delle fasce orarie per settimana, per giorno, eccetera. Però quello che tu fai quando imposti il termostato con quelli classici è dire da quest'ora a quest'ora io voglio che il riscaldamento parta. Quindi non hai la certezza che a quell'ora il calore in casa sia la temperatura che vuoi. Semplicemente vai a dire al termostato, alla caldaia parte a quest'ora. Ora con il NetAtmo la cosa cambia, quindi si va verso questa nuova questo nuovo modo di fare, di pensare, e dopo una settimana di studio della casa il NetAtmo si aggiorna e ti dice: vuoi usare questo nuovo modo di pensare? Tu gli dici sì e lui in pratica considera le fasce orarie che hai dato come le ore in cui vuoi quella temperatura, e quindi se sa che fuori ci sono 18 gradi, la casa tua ci mette un'ora per far salire di un grado la temperatura, si avvantaggia in modo tale che tu a quell'ora abbia esattamente quella temperatura. Quindi è una, cambia proprio il concetto di fare, e questo è anche migliorato dal fatto che può usare la temperatura della tua città per sapere se in quel giorno è caldo o è più freddo, e quindi prevedere il tempo di anticipo che deve prendere per poter scaldarti la casa. Esatto, tra l'altro poi penso che dopo che lui, c'è una settimana di imparare, fondamentalmente usando un algoritmo di machine learning, perché lui riesce a vedere la risposta della tua casa dandogli come input una certa potenza della tua caldaia, che è la cosa che lui può regolare in base alle condizioni esterne, che è la temperatura all'esterno della casa, quindi riesci a capire come funziona la tua casa dando un certo input di calore. Quindi poi tu semplicemente, se ho capito, gli dici in quest'ora voglio avere questa temperatura, però come ci arrivi lo decidi tu, impari a deciderlo tu vedendo la mia casa come risponde a scambi di temperatura, freddo, caldo, fuori, eccetera. Sì, esatto, per farti un esempio, io ho che il pomeriggio alle 6 ci devono essere 20 gradi, e se faccio vedere i grafici, semmai magari le possiamo anche poi mettere a corredo della puntata, sì, alle 6 la curva di salita tocca perfettamente i gradi che io ho stabilito, e l'anticipo inizia generalmente in base alle giornate attorno alle 4 e mezzo del pomeriggio, quindi lui alle 4 e mezzo, in base alla temperatura che è scesa durante tutto il giorno, accende il riscaldamento, inizia a scaldare casa e mi fa trovare a quell'ora esattamente la temperatura che io ho scelto. Ed è eccezionale. È sbalorditivo vedere giorno dopo giorno come effettivamente sfiori i limiti che gli sono stati assegnati. A volte si vede proprio che fa salire di, non so, un mezzo grado la temperatura, in modo tale che se dopo mezz'ora finisce l'intervallo, il cadere lo scendere della temperatura proprio tocca perfettamente il momento di fine dei termosifoni. Cioè, è fatto molto, molto, molto bene. oltre a calcolarti quanto secondo lui hai risparmiato in termini di gas. Ok, vabbè, questo come dire un po'. Ovviamente lo sanno come modo per vendersi che sono dei fighi, che ha funzionato benissimo. Non ti dirà mai, ah, che schifo, questa settimana è andato male. No, però insomma ti dà un'indicazione delle ore, di quante ore nel mese è stato acceso la caldaia, e quindi anche già quello è un indicatore. Ottimo, comunque vi dirò che... Allora, io ho detto che noi non possiamo usarli, perché qui in Germania è un po' diverso, cioè... Ogni termosifone è contato individualmente da una valvola termomeccanica che devi regolare tu a mano, però ho scoperto che ci sono dei modi per poter collegare tutto in maniera digitale, quindi mi state quasi convincendo. Sto quasi convincendo mia moglie che una cosa del genere ci serve per vedere la temperatura di casa. No, vabbè, quella lì ha senso soltanto se hai una caldaia singola come queste che abbiamo noi in Italia. Se hai il riscaldamento centralizzato, quello non ti... No. Però c'è una piccola differenza rispetto all'Italia, dove hai il riscaldamento centralizzato, che noi qui possiamo regolare ogni singolo termosifone e abbiamo un lettore digitale su ogni singolo corpo. Quindi se tutti i termosifoni li spegni tutto l'inverno, tu non paghi, perché tu non tiri calore in casa tua, i sensori leggono quanto calore viene prodotto al singolo termosifone. Quindi più lo tengo basso e meno pago, che riscaldo di meno. Quindi, è quello che in teoria dovrebbero fare qui, almeno a Torino, da 6-7 anni, che nessun condominio ha mai fatto, perché i condomini non vogliono. Ma mi pare che ci sia una legge qua per mettere il sensore delle calorie su ogni macchina per farti pagare esattamente quanto stai scaldando. Perché io mi ricordo da quando abitavo anche da piccolo in palazzine, fondamentalmente il riscaldamento centralizzato come abbiamo usato in Italia è la barbarie, cioè la gente che ha caldo per le finestre, chi ha freddo attacca stufe elettriche, cioè, robe assurde. Bah, c'è uno spreco. Comunque questa è veramente una roba molto molto figa. Appena riesco, tra i miei vari progetti, da quel progetto figlio che sta ormai è alle porte, addirittura per aggiungere un altro livello di difficoltà, chiamiamola, Netatmo fa anche le stazioni meteo, che hanno un modulo interno da mettere dentro casa e un modulo esterno da mettere fuori. Se si comprano anche quelle, quindi sì, si spendono altri 180 euro, esatto, e si collegano con lo stesso account, il termostato prende in considerazione la temperatura delle proprie centraline, e quindi non è che userà la temperatura media nella città o chissà quale dato, ma userà proprio la vostra centralina, quindi sarà esattamente la temperatura che vi fa appena fuori dalla finestra, o esattamente la temperatura che vi fa dentro casa, magari a quel punto avete due punti di calore invece che uno. Quindi c'hanno un sacco di altri gingilli di cazzilli. Sì, loro hanno la stazione meteo con tanto volendo di pluviometro, e adesso hanno fatto anche la telecamera che riconosce, esatto, le persone. Sì, stavo vedendo adesso, tipo, vedi quando la tua persona amata va via di casa, quindi un altro mega Big Brother in casa dove tutti fatti tuoi. Però quello lì memorizza su una CD all'interno del modulo. E se vuoi che Netatmo non abbia una backdoor per rubarti i dati, vabbè, sì, ma... sicuro, se no che li vendono a fa, scusa. Ma è come Google, che adesso potrebbe scriverci nella chat tranquillamente per darci le risposte, insomma, ecco, Esatto, ci scrive tra un po', no, guarda che è così, va bene, grazie. Ci metti link. Esatto, no, è sbagliato. Addio. Comunque, se non sbaglio, tu ne hai parlato sul tuo blog. Sì, ho fatto una piccola recensione con tanto di installazione. Quindi, se volete, mettiamo. Okay, quindi la linkiamo sicuramente. Così, se metti anche qualche plot, così la gente ha un'idea della storia di come poi le fluttuazioni di temperatura vengono, come dire, adeguate alle tue volontà, e quanto funziona bene, così si hanno un'idea. Ottimo, ottimo. Poi, per tornare al discorso del fattore di accettazione delle mogli, è anche un dispositivo molto carino da vedere, ed è fatto da, il design è realizzato da Stark, quindi c'è anche un certo fattore figo da tenere in considerazione. Scusate, dall'industria Stark stiamo parlando di Iron Man, quindi. Ma, ecco, stavo giusto pensando, ma Stark è quello Stark? Beh, sarebbe stato meglio, però no, ora non mi ricordo come faccia di allora, un designer abbastanza famoso. Lo compro allora, mi avevi quasi convinto con quest'ultimo, però. Però c'è lo sticker con Iron Man, quindi... Ok, allora ne compro due, ne compro due, okay. Ottimo, e quindi, ok, ottimo. Quindi da quanto sto leggendo, poi... Nella rete, nelle nostre ideine per questa sera, se non ho capito male, se parlavamo anche poi di poter accedere a questa roba dall'esterno, oppure non è legato al NetAtmo? No, non penso sia legato al NetAtmo, perché lui, da quello che ho capito, parla con un servizio esterno comunque per comandarlo. Dico bene? Sì, esatto, sì, si appoggia ai server di NetAtmo. No, quindi io stavo rubare i tuoi dati. Stavo pensando. Uno si vuole fare un qualche cosa di suo e vuole accedere dall'esterno al suo gestore che hai in casa. Questa cosa normalmente, quando ti consegnano la ADSL, non si può fare per ovvi motivi di sicurezza. E quindi volevo dire a brevi linee com'è che si può fare questa cosa qui, cioè se avete configurato un dispositivo sicuramente di rete conoscete qualche cosa. Praticamente voi avete dato un indirizzo IP al vostro dispositivo, che può essere 192.168.1.10, sono gli indirizzi che normalmente sono assegnati in rete. Come fare per raggiungere da un posto qualunque nel mondo il vostro dispositivo dentro casa? Bisogna fare essenzialmente due attività. La prima è fare in modo di sapere qual è l'indirizzo pubblico del vostro router. I gestori di connettività internet non vi daranno mai un indirizzo fisso legato al contratto. Ogni volta che riavviate il router, l'IP cambia. E in certi casi l'IP cambia anche se non riavviate il router. Sia io che Mario abbiamo provato un sistema di DNS dinamico, che è DAC DNS, che è funzionale, gratis e funziona benissimo. Si installa un piccolo client che verifica in continuazione qual è l'indirizzo IP pubblico e assegna a un nome l'indirizzo vostro. Quindi voi potete raggiungere casa vostra con il vostro nome, pippo. mi pare duckdns.org. Mario, sì, dico bene? Mi sa, è uno di quei. .org, sì. È uno dei domini. Mi sa che ne hanno vari, però è quello fondamentale, che è quello loro, più una parte di livello più basso col tuo nome utente, fondamentalmente. Ma sì, quello lì forse è quello a pagamento, quelli okay, gratis giusto, ha, giusto, giusto, ha solo giusto. Loro. Hai ragione, però va benissimo per una roba gratis che devo dire. Ne ho provati vari e questo è l'unico che per adesso ha funzionato. Cioè, no, altri... più che altro, per esempio, noip.org è gratis, ma ogni 30 giorni devi dirgli sì, sì, voglio continuare, e se ti dimentichi di leggere la mail ti brasano il nome. Sono sicuro che sono io e voglio. Sì, sì, invece DAC DNS funziona veramente, veramente bene. E poi... infatti, scusami, no, volevo dire, poi metteremo la pagina, un link proprio alla paginetta dove spiega come installare quello che tu dicevi, il client fondamentalmente per la parte Linux e Mac è un piccolissimo script di una riga, cioè è il niente, è una roba di una semplicità disarmante, quindi c'è poco che può andare storto fondamentalmente. Verissimo. E la seconda cosa è, ora abbiamo raggiunto il nostro router, come fare per raggiungere quel dispositivo che noi vogliamo comandare? C'è una cosa che sul router si chiama virtual server o port forwarding. Adesso cerco di essere facile, non addentrarmi nel protocollo IP, che comincia a diventare un po' complesso. Praticamente voi, quando accedete a un qualunque indirizzo, potete specificare anche una porta. Per esempio, quando accedete a un sito, voi accedete alla porta 80 o alla porta 443, a seconda se è un HTTP o un HTTPS dove la conversazione è criptata. Potete decidere di assegnare una porta che normalmente è una porta alta, perché le porte basse hanno dei protocolli ben standard. Se non sbaglio, poi sono, scusami, se le porte sotto la 1024 sono vietate... Cioè non le puoi segnare a meno che tu non sia super user, cioè non puoi proprio toccarle. Perché sono standard di un sacco di protocolli, tipo la porta 21 LFTP, sì, la porta 22 LSSH, cioè ce ne sono tantissimi standard. Però dico, sopra la 1024 ne hai un botto che puoi farci quello che vuoi. Perché arrivi fino a 65.535, una roba del genere. Tante. Tu assegni una porta sull'IP pubblico esterno, quindi dici che il mio nome di DuckDNS è porta di 10.000, il traffico che arriva su quella porta lì deve essere girato e inoltrato alla porta 80 del mio Raspberry Pi. Ovviamente dovete mettergli un IP statico. Di conseguenza io posso accedere dall'esterno al mio piccolo server interno. È un piccolo buco di sicurezza, perché lui non sa che sono io e mi apre la porta, lui la tiene aperta per tutti, quindi se qualcuno fa un port scan si accorge che quella porta lì è libera e può fare una verifica. Ma se è fatto bene, ovviamente vi permetterà di utilizzare il vostro sistema dentro a casa vostra senza dover fare una VPN, che è una cosa molto più complessa. Sicuramente chi ha paccioccato con Torrent o con Emule sa dove si mettono le mani per configurare i port forwarding, se no questi due sistemi non funzionano bene. Esatto. Io vorrei giusto portare qui come esperienza. Io ho fatto questo, io l'ho rifatto attualmente con il mio NAS, che è un banana P. Però fondamentalmente è come avere un Raspberry o, diciamo, roba equivalente. Quando avevo il Raspberry fino all'anno scorso, finché non è scoppiato, poi ho scoperto che era tutto questo per l'alimentazione. Quindi chi di voi fa questi giochi, comprate un'alimentazione decente, costante, di qualità, e vivete tranquilli, perché il Raspberry con l'alimentazione sbagliata è una tragedia. Comunque, quando avevo quello, il Raspberry vecchio, come NAS, come serverino, l'avevo messo in port forwarding utilizzando le porte standard, quindi tipo la 22 SSH era forwardata dalla 22 esterna dell'IP pubblico. Voi non avete idea degli accessi provati, attacchi, ma in 3 mesi ho contato qualcosa, ho messo a fare un po' di statistiche, ma roba come più di 10.000 accessi, cioè per una cosa che nessuno ha, cioè nessuno ha il mio IP. C'è gente che fa scansione della rete a caso cercando di accedere a roba bucata o accessi senza protezione, eccetera. Quindi se fate queste cose, uno, vi consiglio di utilizzare porte non standard, che sapete voi, cioè inventatevi una porta a caso per i servizi in modo che non si possano collegare, e soprattutto l'accesso va fatto sempre con le chiavi pubbliche e private, cioè password mai, password stupide men che meno, però evitate, cioè la sicurezza va tenuta in questi casi, anche se pensate chi mai potrà cercare di accedere al mio serverino stupido con niente sopra. C'è gente che fa quello sempre. Ma è che più che altro ci sono dei bot che non fanno altro che tentare. E quando lo acchiappi, via. Tutte queste zombie net di computer zombie nascono così, fondamentalmente. Assolutamente sì. Ma infatti l'apertura di una porta è un concetto molto molto chiaro. Io apro una porta per l'ingresso nel mio sistema. Esatto, ma devi sapere cosa può succedere, quello è il punto. Vero, perché poi non sembra, ma una volta che ti beccano e entrano nel tuo sistema, poi magari scoprono che la password di root è root, e entrano e ci fanno tutto quello che vogliono. E poi davvero ti ruttano nel sistema. Sì, e il fatto è che se fanno cose che non sono le legali dal vostro IP pubblico, vengono poi a prendere voi. Esatto, la colpa è come lo stesso concetto di lasciare la macchina aperta e la prendono a fare una rapina, poi di dimostrare che tu non eri complice. Esatto. Idea, esatto. Perché cioè, lasciarla aperta è un po' una cosa stupida, però non viene mai considerata la sicurezza in questo caso come una colpa, diciamo, da meno dalla gente che non se ne interessa troppo. Vedi, anche a casa dobbiamo stare attenti, sempre. Proprio sempre, sì. Ok, bene, quindi direi che abbiamo più o meno, come dire, esaurito la parte di robe di casa, robe grosse, pesanti, che sono sempre ferme lì. Quindi a questo punto possiamo passare a una nuova, come dire, fase dell'internet delle cose, che ci segue, come dire, ci segue in tutti i giorni. Quindi chi di voi ha un po' di esperienza con questi argomenti di che vogliamo introdurre. Qualcuno di voi ha proprio qualcuno di queste, di questi oggettini di cui andiamo a parlare? Io ho il Pebble da quest'estate. Ottimo, quindi ci spiega, che chi non lo sapesse, un'introduzione, cos'è, cosa fa, cosa allora, vorresti che facesse. Ormai è diventato quasi un termine comune, lo smartwatch. Il Pebble è il primo che è uscito sul mercato, finanziato da Kickstarter, ha preso un sacco di, milione di dollari, soldi. Ha ritardato un po' le prime consegne, perché mi ricordo che hanno cominciato a consegnare 6-7 mesi dopo la data di previsione, quindi c'è la gente che cominciava a preoccuparsi. È un orologio che ha un display e-ink, quindi tipo il Kindle, che consuma batteria solo quando cambia. È Bluetooth, parla con un'applicazione sul telefono che sia Android che sia iOS. Non so se funziona su Windows Phone, non ne sono certo. E è molto semplice, non fa altro che riportare come attività basilare le notifiche del telefono sul polso. Quindi sto leggendo adesso sul sito ufficiale che supportano solo iOS e Android, BlackBerry e Windows Phone al 27 febbraio 2015, non è supportato. Ah, ok, perfetto. Praticamente io lo uso come sostituto delle notifiche, io non ho più una notifica che mi accende il display del telefonino, a me arrivano solo sull'orologio. E poi se voglio posso decidere se controllarle oppure no. Un'altra funzione interessante è che si possono installare delle app che fanno veramente l'impossibile, quindi c'è un app store dentro l'app del telefono, e per esempio io ne uso una che è comodissima e che si interfaccia con Evernote, e ho la lista della spesa all'orologio. La posso spuntare ed è comoda, ma veramente comoda. Piuttosto che c'è l'applicazione per monitorare il sonno, perché l'orologio ha l'accelerometro interno, piuttosto che si possono installare 8 milioni di watch face diverse, nel senso che come viene presentata l'ora. C'è quella solo con le lancette, c'è quella con l'ora digitale e il calendario, c'è quella con il meteo, ce n'è una molto comoda per quando si viaggia con l'orario doppio, con due fusi diversi. Insomma, è un'estensione del telefono che normalmente sta in tasca, che hai sul polso, che è molto più comoda. Per esempio io quando ascolto la musica, se voglio mettere in pausa o mandare avanti o indietro una canzone, lo faccio dall'orologio. La batteria dura una settimana, che secondo me è un plus non da poco. Ci sono un tot di altri smartwatch. Cosa ne fai, scusami. Ma ovviamente se gioco, cioè, c'è anche Pong che si può mettere sull'orologio come app. Francesco? Ma io lo uso per guardare l'ora, fare la spesa due volte a settimana e per le notifiche varie. E a me dura dai 5 ai 7 giorni. Ok, quindi di tutto rispetto a quello sì, che siamo abituati. Cioè, te ne dimentichi. Poi la cosa buona è che per ricaricarlo 2 ore e mezza lui è carico, quindi non è che dici no, devo lasciare a casa per un giorno per usarlo 7. No, io la sera che è scarico torno a casa, lo metto in carica e dopo cena lui è carico. È comodo perché io lo uso come sveglia, non disturba intorno, perché lui vibra sul polso. Ha un piccolo difetto che per esempio con le chat multipersona devo disattivare le notifiche, sennò a furia di vibrare mi si stacca il polso. E io sono molto soddisfatto, nel senso che ormai non ne potrei più fare a meno, perché lo trovo molto molto comodo. Infatti ora ho un problema sul display, avevo paura di dover restituire il mio per farmi mandare l'altro, ma Pebble mi ha spedito quello lì nuovo senza volere il mio, quindi almeno non resto senza. Senti, avevo una domandina che mi ha sempre stimolato sui watch, fondamentalmente le applicazioni, quindi avevano uno store loro oppure per dire, per lui gira con Android oppure no, lui ha un suo sistema operativo, okay, dentro, quindi si interfaccia con, c'è un'app sicuro sul, okay, telefono. Ah, perfetto. E le dentro app... l'app c'è l'App Store, un App Store loro, quindi di roba solo per loro, e hai le applicazioni, i giochi, le facce, cioè i display per visualizzare l'ora, eccetera. Lui parla con il telefono in Bluetooth e una connessione ovviamente costante, e però cioè io noto almeno sia sull'iPhone 4S che avevo prima, sia sul 6 ora, che non incide così, così tanto. Anzi, il fatto che io abbia tolto tutte le notifiche e tutti i suoni dal telefono, secondo me, fa sì che il telefono duri persino di più. Giusto. Giusto per fare l'avvocato del diavolo, sono andato a controllare, e il Pebble originale su Kickstarter su $500,000 ne ha fatti 14 milioni e mezzo. Beh, quindi... hanno fatto la stessa cosa l'altro ieri, hanno lanciato quello a colori e sono arrivati a 15 milioni, una roba del genere. Assurdo. Parlavamo di questa cosa con Valentina l'altro giorno, e lei mi ha in effetti mosso una critica che è assolutamente reale. Praticamente i signori di Pebble hanno fatto un sacco di soldi con il primo. Normalmente le imprese che fanno investono i soldi per il prodotto nuovo che poi vendono. Loro hanno giocato, passatemi il termine, un po' sporco, perché hanno rimesso su Kickstarter forti del fatto che avrebbero preso un sacco di soldi in anticipo. Beh, si fanno pagare lo sviluppo dell'oggetto nuovo. Questa cosa però come logica aziendale ha poco senso rispetto alle aziende che guadagnano, investono e evolvono. Cioè, non si sono accollati il rischio di impresa. Hanno fatto un sacco di soldi e secondo me non è che dici, se l'avessero sviluppato per i fatti loro non avrebbero venduto, però io Kickstarter lo vedrei un po' più per le società nuove che non hanno soldi. Secondo me Pebble ne aveva da investire. Sì, guarda, poi ne parleremo un giorno, che c'è anche poi un filone di, come dire, diversi articoli su come questi, diciamo, acceleratori di tamponi di lancio per nuovi progetti sono diventati in un certo modo anche già malati. Sono moltissimi esempi di progetti che sono stati fatti, non dico come truffe, però molto spesso se tu non tieni fede a quello che hai promesso non hai nessun, come dire, nessun rientro. No, non c'è nessun problema fondamentale su queste piattaforme. Cioè, male che ti va, non prendi quei soldi. Però hanno cominciato a introdurre anche finanziamenti a scaglioni, in cui tu comunque prendi qualcosa dei soldi che ti hanno dato i finanziatori. Quindi sta diventando, come dire, una piattaforma di lancio a rischio zero per chi la fa, e tutto il rischio alla fine è dato sulle persone che si fidano di chi presenta la roba. Che finché lo fai per un mercato piccolo, però questa roba del Pebble, cominciamo ad andare su scale, cioè loro potrebbero costruirselo loro. Quando ti costruisci milioni di pezzi puoi cominciare a fare economia di scala e fartelo tu, ma tranquillamente. Ma vedi che loro l'hanno già sviluppato, perché se lo intendono consegnarlo per giugno o luglio, quando era, mi sembra luglio la data di consegna, loro sono in avanzato stato di sviluppo. Sì, ma spesso ho visto anche, per esempio, l'hanno fatto molto anche per i videogiochi, lo stanno utilizzando. Non lo usi effettivamente per la ricerca e sviluppo, però lo usi per fare un'indagine di mercato. Cioè tu lanci un nuovo prodotto che hai praticamente fatto, hanno aggiunto il colore all'oggetto che avevamo già prima, quindi hanno cambiato lo schermo fondamentalmente, e qualcosa della parte grafica per poterlo visualizzare, e l'hanno venduto 6 mesi prima di produrlo. Quindi loro sanno esattamente quanti pezzi devono almeno... fare e quanti ne consegneranno già. Esatto, il primo giorno zero aprono le consegne e ne consegnano 10 milioni, ciao. E già, e praticamente possono chiudere l'anno già in guadagno. Non so, secondo me è stato giocare sporco e dimostrare di poterne vendere tantissimi. Però No, c'hai ragione, per me c'hai ragione. Cioè, sta diventando un po' contraddittoria come cosa. E comunque, per tornare poi al wearable, io del Pebble sono contentissimo, nel senso che fa esattamente quello che a me serve. Poi sull'indossabile, secondo me, la soddisfazione finale è che faccia quello che tu ti aspetti o quello che tu cerchi. Io, per esempio, del Mi Band o dello Xiaomi, che non mi ricordo come che si chiama, me ne farei poco perché ha solo l'accelerometro. Io l'orologio lo uso anche come un orologio. Io sono uno molto fissato sull'ora e la guardo spesso. Tieni conto, tipo, io non ho più, da quando sono proprio nati, già i cellulari di vecchia generazione non ho mai portato un orologio dalla gioventù più piccola, quindi io la parte orologio non ne farei niente, però tutta la parte di notifiche eccetera potrebbe essere utile, perché tirar fuori sempre il cellulare è davvero stancante a un certo punto. Io sono veramente veramente soddisfatto. Vediamo un regalino da qualche parte. Chissà se ci riesce. Senti, Massimiliano, tu invece hai qualcos'altro da aggiungere all'argomento? Aggiungere, sì. Sì, io ho un fitness tracking. Io ho un oramai vetusto Fitbit Force, mi sembra sia Force, che è stato uno dei primi, ed era quello a clip con la forma, diciamo, a goccia. E Fitness Track praticamente è questo oggettino che si ricarica batteria, in questo caso sì, siamo sulla settimana abbondante, utilizzato per tracciare il numero di passi, rampe di scale salite, quanta attività si fa nell'arco della giornata. Il tutto poi viene preso ed inviato a Fitbit per lo storage dei dati e per la visualizzazione degli obiettivi, dei traguardi raggiunti. Quindi sono degli oggetti che adesso tendono a fare più sotto la forma di braccialetti, perché si possono portare più comodamente, è più difficile dimenticarseli. Di solito danno anche la possibilità di tenere traccia del sonno. Questo che io lo fa soltanto va messo in una sorta di cover con lo strappo in velcro e va attivata la modalità esplicitamente, quindi è un po' noioso sotto questo punto di vista. Quelli nuovi, alcuni addirittura capiscono già automaticamente quando stai andando a dormire e quando stai dormendo. Quindi sono oggettini simpatici, dell'utilità finale un po', secondo me, un po' limitata. Infatti sto scrivendo un altro post per il blog proprio su questa parte qui, e lì stavo analizzando il fatto che ok, abbiamo questi dispositivi che generano tonnellate di dati su quanti passi facciamo, su quanti rampe di scale, però poi alla fine l'utilizzo è un po' scarso, a meno di essere una persona fissatissima che sa poi anche dedurne dei concetti di tipo quasi medico da questi dati, perché ad esempio se si inizia a fare attività sportiva per ridurre un particolare problema, come può essere l'ipertensione oppure per perdere peso, tutti questi sistemi, anche se si comprano i pacchetti pro che hanno tutti, che ti danno qualcosa in più, nessuno ti dà delle informazioni derivate da tuoi dati di alto livello, cioè nessuno ti dirà: ah, guarda, tu stai facendo così, va bene, allora il tuo colesterolo è sceso, però prova a fare così invece che cos'ha. Ecco, questa cosa non succede. Ma secondo me non succede per un fatto medico. Metti caso che loro ti consigliano di fare qualche cosa e tu stai male dopo, di chi è la colpa? Ok, tenendo conto che diciamo i disclaimer stanno in ogni dove, e tu dovresti... ma lo sai bene che la gente non legge e poi sono pronti a fare causa per ogni singola cosa. Leggevo che è per questo motivo che l'Apple Watch che presenteranno a breve non avrà tutta una parte di cose mediche, perché hanno paura di questa cosa, e soprattutto perché ormai si sono accorti che la precisione solo con l'accelerometro non è sufficiente, quindi secondo me è per quel motivo lì che per ora non si va così tanto avanti. Non so, da una parte io come smanettone di dati, a me piace semplicemente saperle queste cose, quindi io se io dico a una persona semplicemente oggi hai fatto tot passi, a me già quello potrebbe essere un'informazione che mi serve. Ovvio che io non posso ricavarne deduzioni mediche, come diceva Massimiliano, perché non ne ho la capacità, però so che se devo camminare una certa quantità di chilometri in un giorno, me lo sta facendo Google, hanno tra l'altro c'è l'applicazione Google Fit che mi è uscita di nuovo da sola con l'installazione di Lollipop Android 5, che mi segue, mi dice ogni giorno hai fatto tot passi, hai fatto attività per tante, e riconosce automaticamente quanto ho fatto in bici, quanto ho fatto camminando, eccetera. Il problema è che queste sono, diciamo, questa è la, come nell'esempio che parlavamo prima, cioè questa è la sensoristica fondamentalmente, poi ci vuole l'esperto che prende questi dati e ne ricava un pattern, ne ricava informazioni, quindi che li interpreti. Quindi per adesso stiamo costruendo l'internet dei sensori fondamentalmente. Sì, che poi possono essere informazioni pseudomediche, ma anche informazioni di buon senso, come ad esempio se lui potrebbe capire che tu nell'arco dei mesi, della settimana, a quell'ora vai più volentieri magari a correre rispetto ad un'altra ora, oppure che in media a quell'ora fai più chilometri di corsa, allora magari potrebbe invogliarti a cambiare. Ecco, tutte queste informazioni per esperienza mia le deduce guardando dei grafici, quindi hai un grafico, magari anche un altro grafico fatto in un modo diverso, allora capisci che quel punto lì in un grafico corrisponde a un altro punto del grafico, che vuol dire alla fine che a te piace correre la mattina, ti torna bene e la mattina fai più chilometri. Però non c'hai niente, un servizio che, presi tutti questi dati, sappia fare una cosa del genere, che in questo caso non è medico, oppure, come dicevamo prima, potrebbe essere medica, e che sicuramente andrà incontro ai problemi che diceva Francesco, che è giustissimo. Alcune aziende, tipo in America, si sono trovati davanti alla necessità di doversi certificare come produttori di materiale medico, e quindi hanno smesso qualsiasi progetto che stavano portando avanti. Però non c'è, il punto che stavo analizzando io era proprio sull'utilità di spendere quei soldi e spendere anche del proprio tempo, perché poi dopo il wearable te lo devi ricordare, te lo devi portare dietro per avere un'utilità, altrimenti sul comodino non serve a niente. Beh, quello lì per esempio con l'orologio io ce l'ho sempre dietro, è sempre al polso. È ovvio che se ti serve per fare ginnastica, secondo me tu lo prendi insieme, che ne so, al lettore di MP3 che ti mette nelle orecchie quando corri. Sì, ti rendi conto che quello che ho io la mattina mi alzo, lo infilo nella tasca dei pantaloni e lo porto con me tutto il giorno, quindi lui mi traccia sia i passi che faccio durante il giorno mentre sono al lavoro, che se poi dopo vado a correre lo sposto nell'abbigliamento da corsa. Dovesse tracciare i passi che faccio io quando sono al lavoro, a fine giornata mi direbbe guarda che non hai fatti più di 15. No, ma è interessante effettivamente rivedere i grafici per chi, almeno come me, fa un lavoro davanti a una scrivania. Vedi che ci sono proprio sezioni della giornata in cui potresti essere morto, per lui è uguale, la stessa cosa, cioè, ah, ecco, bene, cioè, zero per quarti d'ora, mezz'ore, ore intere, vuol dire che stai seduto piantato su una seggia. Quindi hai come goal della giornata fare lo zombie per 2 ore o 3 ore. Quindi, ma lo zombie forse cammina. Ah, giusto. Sì, fare lo zombie un po' strusciato, un po' sibilato, ma cammina. Ce la fa. Quindi siamo peggio di zombie, mamma mia. Sì, no, è vero. Ok. Quindi diciamo hanno un'utilità questi oggetti, però come tutto comunque, come anche la parte di Internet of Things di cui parlavamo prima, secondo me il problema fondamentale è che siamo in una fase di maturazione, cioè queste tecnologie sono ancora nuove e molti non sanno come sfruttarle, non si sa bene cosa fa. C'è solo l'effetto, è una cosa figa, facciamola, è ancora lì, però le applicazioni vere e utili devono ancora arrivare secondo me, o stanno piano piano arrivando, però non hanno proprio un impatto sulla società. Cioè, se tutte queste robe wearable non ci fossero, non è che ci cambierebbe molto adesso. Ma secondo me hanno bisogno dell'evoluzione, come c'è stata, certo, l'evoluzione, certo, dello smartphone piuttosto che del PC tablet, portatile, che prima pesava 6 kg e ora pesa 6 etti. Giusto, come i tablet o come tutto. Sì. Tieni conto poi che fare un wearable ha una complessità, mentre fare un algoritmo che deduca un concetto dai dati ha un altro livello di complessità. Quindi ecco perché si sono esplosi in tutti questi wearable, ma l'utilità finale non so, infatti non a caso mi sembra che si stia un po' spegnendo la... Sì, un po' come altre tecnologie tipo TV 3D e robe del genere, che alla fine... Ah, quella fatta anche peggio, penso. Ma la TV 3D è morta e è basta, morta. Ora c'è il 4K e boh. È nata morta, diciamo. Sì. Ok, quindi a questo punto per la prima volta abbiamo una ricca rubrica di argomenti degli ascoltatori. Come avete visto prima, il buon Marco a corte ci aveva segnalato, ha cominciato a segnalarci su Twitter robe molto interessanti, quindi lo ringraziamo molto. Abbiamo avuto un altro paio di contatti, quindi volete introdurli voi? So che ho parlato già tanto fino adesso. Allora, io cito Fiorenzo Spampinato, che ci ha chiesto come gestire la crittografia su dispositivi portatili. Io la uso perché normalmente ho paura che alcuni miei dati lasciati nella pennetta USB che viene persa cadano in mani sbagliate. Devo essere sincero, uso un prodotto che non è più manutenuto e che è stato dichiarato non tanto sicuro, anche se per ora nessuno l'ha mai dimostrato, e uso TrueCrypt per un motivo semplice: funziona su Linux, funziona su Windows e funziona su Mac. Gli altri sistemi di crittografia sono proprietari dei sistemi operativi e non sono più e non sono portable alla fin fine. Io con TrueCrypt mi trovo gran bene. Ottimo, quindi io potrei ricordare, diciamo che tutto questo è avvenuto tramite varie interazioni tra email, Facebook, Twitter, eccetera. Quindi quando voi ricevete qualcosa da GeekCookies è una specie di idra a tante teste, che può essere uno di noi. Quindi ognuno di noi più o meno ha risposto a qualcuno e sa di cosa stiamo parlando. Io in particolare ringrazio il contatto di Marco Paglia, che ci ha contattato tramite Facebook, e lui ci chiede in particolare qualche dritta su come approcciarsi al retro gaming usando Raspberry. In particolare gli ho consigliato di installare una distribuzione che è sempre basata su Debian, quindi una classica distribuzione Raspberry, si chiama RetroPie, che fondamentalmente ti simula qualsiasi console tu voglia, diciamo una specie di mega mame che ovviamente non ha all'interno nessuna ROM, perché come tutti ben sappiamo le ROM non esistono, non sono legali, quindi non c'è nessuno, però se cercate ovviamente come si sa, come tutte, qualcuno che non le ha c'è. Esatto, quindi fondamentalmente io abbiamo consigliato di installare RetroPie, che è già tutta tunata per poter creare una piattaforma di retrocomputing fatta per bene, e ci sono anche un sacco di device come joystick da sala giochi retro molto belli. Quindi Marco, se sei riuscito a installarlo e ci stai giocando, facci sapere la tua esperienza e potremo lanciarci anche noi in questa nuova avventura di gioco, come se non facessimo nient'altro. Ottimo, quindi manca... Chi ha risposto a Mirko? C'è Mirko Romanato che ci ha contattato tramite Facebook parlando di OnCloud. Se a Mirko abbiamo risposto un po' io e un po' tu. Alla fine abbiamo già detto bene o, bene o male i nostri pensieri. Il cloud, tu non sai dove sono i tuoi dati, essenzialmente. Sai che ce li ha Google, ma non, sa, non sai dove, non sai che cosa ci fa, idem Dropbox e anche tutti quanti gli altri. C'è un sistema open source che io ancora non ho provato, ma chi l'ha provato me lo ha definito spettacolare, che ti gestisce su una tua installazione a casa, condivisione file, quindi avere i file su qualunque dispositivo, calendario e contatti. Si chiama Aun Cloud e lo metti su un PC, fai due configurazioni sulla, sulla tua rete come abbiamo detto prima e ce l'hai sempre con te, con l'innegabile vantaggio che sai dove sono i dati. Lo svantaggio vero è che purtroppo ti devi fidare della tua infrastruttura, quindi se va giù la ADSL non hai i tuoi dati, se hai un blackout in casa e capita, non hai i tuoi dati, se si rompe un disco finché non lo cambi e se hai il backup temporaneamente non hai i tuoi dati. Quindi bisogna mettere un po' sulla bilancia queste, queste due, due cose qui, quindi minor rischio di indisponibilità con il minor rischio che i tuoi dati vadano nelle, nelle mani sbagliate. Questo è quello che penso io, però a un cloud volevo provarlo perché ancora non l'ho provato. Io l'avevo installato su Raspberry un periodo, però per i problemi che avevo detto di alimentazione pensavo fosse un problema in Raspberry. Alla fine a un cloud ha funzionato. Io ho provato questo e anche C-File, che è un altro diciamo un programma molto simile. Un problema di iCloud che ho sperimentato provando a installare su un server Mac e che almeno fino a qualche mese fa c'era un'incompatibilità per un problema di Unicode. Il server non poteva essere installato su un Mac, quindi gira su distribuzione Linux fondamentalmente e il client poi lo mette dove vuoi, però il server aveva un problema col Mac. Quindi se volete installarlo sul Mac fatemi sapere se è cambiata, perché non ho più controllato, anzi dovrò farlo. Ottimo, quindi un altro contatto abbiamo avuto da Davide Varni, che ci ha scritto tramite Facebook. Lo ringraziamo per le care parole. In particolare lui ha apprezzato tutte le nostre puntate, quella su YouDo, quindi la, la puntata passata, che abbiamo apprezzato anche noi molto. Quindi spero che, come dire, lui si, si sia convinto anche lui a comprare la, la schedina, di cui tra un po' daremo una fantastica notizia per tutti. Quindi direi a questo punto abbiamo Marco, già l'abbiamo ringraziato per i contatti tramite Twitter. Ok, quindi possiamo dare la nostra news YouDo. Vediamo, assolutamente sì. Vai. Non so chi, chi è di voi il fare l'apertura di cerimonia con YouDo. Massimiliano? Vai, vado io, dai, più... visto che siete timidi, siete due ragazzi timidi. Sì, dai. Va bene, come vi ho detto, la puntata precedente abbiamo avuto Michelangelo Guarise e alla fine abbiamo pianto un pochino alla fine della, della, della puntata con i microfoni spenti e lui si è interessato e, ed ha ottenuto per noi un codice sconto per comprare la YouDo dal, dal sito. Quindi voi... se avete deciso di comprare la YouDo, andrete sul sito della, di YouDo, fate tutte le procedure di acquisto e quando vi chiede il codice sconto inserite il codice GeekCookies. Questo vi darà un 10% di sconto sui dispositivi che andrete a comprare e se non ricordo male vi annulla anche le spese di spedizione, a meno che non fossero... Confermo, esatto. Nessuna spesa di spedizione e 10% di sconto anche sugli accessori, quindi su tutto il carrello. Perfetto. Quindi uno, una bella occasione, soprattutto se volete provare questa, questa scheda molto molto bella. Chissà se questo codice durerà fino a giugno quando uscirà il NIO, ora magari ci... ci informeremo. Ma Michelangelo mi pare che ci abbia detto che dura 12 mesi, quindi è valido fino a febbraio dell'anno Perfetto. Prossimo. Allora molto probabilmente durerà anche per la nuova NIO, quindi magari lo ricorderemo, lo ricorderemo anche nelle prossime puntate. Quindi. Vorrei solo sottolineare lo sconto lo abbiamo chiesto per gli ascoltatori e per comprare noi la scheda. A noi non viene in tasca niente, quindi che sia esatto. Ben chiaro questo. Cioè non è una sponsorizzazione, è più un regalo che facciamo noi a voi e ringraziando ovviamente YouDo, Michelangelo e tutti i ragazzi che ci lavorano. Bene, quindi direi che questo punto è davvero tanto e possiamo passare in chiusura. Quindi per questa serata posso cominciare io a dare i contatti. Vi ricordo che potete contattarci su una quantità smodata di social network, un paio. Quindi fondamentalmente ci trovate principalmente su Twitter come GeekCookieCast, o come se volete sempre scriverci una mail di lunghezza variabile, noi siamo aperti a tutti, ci trovate a geekcookiespodcast@gmail.com, e come sempre tutte le puntate con tutti i link e tutte le note le trovate su geekcookies.github.io. Abbiamo attualmente una ottima pagina Facebook dove seguiamo abbastanza spesso tutto quello che ci dite, quindi ci trovate cercandoci come GeekCookieCast, e ovviamente anche su Google Plus siamo abbastanza attivi, lì ci troviamo anche un po' di link, nel genere mandiamo un po' di link geek di notiziole che troviamo tutti i giorni su iTunes, su iTunes ci trovate, trovate il nostro podcast con tutte le puntate uscite fino adesso. Se vi è piaciuto, se vi piace, aiutateci mettendo qualche recensione, un po' di stelle che ci aiutano a salire in classifica, e diffondete il verbo del nostro podcast se vi è piaciuto, e anche se non vi è piaciuto spero che apprezzate il lavoro che stiamo facendo per voi. Quindi direi che abbiamo più o meno messo tutto. Avete qualche altra? No, direi no. Dobbiamo solo dire delle sigle. Ah, ottimo, quella è una cosa che devo sempre fare. Sì, perché c'è quella R moscia che non ci viene tanto bene. Scusatemi, giustate. Allora, un attimo che mi preparo. Ottimo. Allora, come ogni buona puntata che si rispetti, dobbiamo rispettare le licenze, quindi le nostre sigle di apertura e di chiusura sono rilasciate sotto licenza Creative Commons, quindi la sigla è presa da Giamendo del gruppo Pornophonic della canzone Sad Robot, l'album è l'8-bit Lagerfeuer, e quindi si legge Lagerfeuer con la R moscia. Quindi adempiuto a queste cose burocratiche, vi lasciamo quindi con tanti saluti per questa puntata e un grazie per averci seguito fino adesso. Buona serata a tutti da Francesco. Buona serata da Massimiliano. E un caro saluto anche da parte mia. Grazie e ci sentiamo presto. Ciao!